Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, eccoci pronti a iniziare una nuova giornata insieme. Si parte quindi e oggi ci accompagna il professor Sergio Arari, direttore della pneumologia all'ospedale San Giuseppe Multimedica di Milano e professore di clinica medica all'Università Statale di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, lei che è da mesi in prima linea, come sta vivendo questi giorni? Con ottimismo, direi cauto ottimismo, preoccupazione, se vuole può raccontarcelo anche con un colore. A proposito. È un grigio scuro, quindi come dire, purtroppo non sono così ottimista. La storia di questo virus ci ha insegnato a mantenere una guardia molto alta. In questo momento i dati stanno sicuramente migliorando. La mia paura è dell'effetto che definisco fisarmonica, cioè che a un certo punto si riducano le misure restrittive e a quel punto il virus riparta come è già successo l'estate scorsa. Quindi fino a quando non avremo la luce dei vaccini e un'immunità di gregge sufficiente a proteggere tutta la popolazione, io sono molto comunque, diciamo, sul chi va là, ecco. Ecco, un grigio scuro, possiamo metterlo un po' screziato da grigio più chiaro? Ma allora, ripeto, i dati sono positivi, l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio è un decreto condivisibile e anche che rafforza delle misure restrittive in maniera chiara e quindi in questo senso anche rispetto alle prossime festività credo che sia un segnale fortemente positivo. Diciamo che comunque ci sono alcuni aspetti che ci lasciano perplessi sulla gestione dell'epidemia riguardo soprattutto la responsabilità dei cittadini che si sono dimostrati nella prima fase molto attenti, adesso ogni tanto si assiste a dei comportamenti che non sono proprio accettabili. Quindi parola d'ordine responsabilità, professore. Dobbiamo... Sì, assolutamente. Purtroppo le misure che noi abbiamo oggi per proteggerci dal virus sono solo quelle del distanziamento sociale. È faticoso portarle a lungo tempo, ma credo che sia l'unica strada che possiamo percorrere. E dall'altra parte il grido scuro è anche legato al fatto che abbiamo superato la soglia dei 60.000 morti, che è un numero spaventoso. Spaventoso, drammatico. È proprio così. Professor Arari, di primo mattino le chiedo di aiutarci un po' a fare un po' il punto della situazione e partirei dalle cure a domicilio sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute sui farmaci da usare o meno in casa per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2. Intanto il paziente da gestire a casa, professor Arari, è quello a basso rischio, quindi che presenta una sintomatologia similinfluenzale, è corretto? Assolutamente sì, ed è il paziente che non manifesta desaturazione significativa. Abbiamo più volte rimarcato come il saturimetro ci indichi dei dati molto importanti sulla quantità di ossigeno che abbiamo nel sangue. Quando la saturazione scende al di sotto di un valore che, diciamo, nella popolazione generale può essere identificato attorno al 92%, è un campanello di allerta. I pazienti che invece non manifestano questo segnale possono stare a domicilio e essere gestiti con un po' di attenzione anche a casa propria. Allora, professor Arari, andiamo alla terapia. Quali sono le raccomandazioni? Che cosa è cambiato? Allora, molte cose in realtà sono cambiate, ma più sul trattamento ospedaliero dei pazienti. Per quello che riguarda invece il trattamento dei pazienti con una sindrome da Covid-19, che come diceva giustamente lei è molto simile a una sindrome influenzale, noi dobbiamo, così come facciamo per l'influenza, trattare i pazienti col paracetamolo, la tachipirina, tanto per intendersi, idratarli, perché con la febbre possono perdere comunque liquidi e comunque l'idratazione serve anche a tenere le secrezioni più fluide e concedere all'organismo il tempo necessario per guarire spontaneamente attraverso le proprie difese. Solamente in alcune categorie di pazienti molto particolari viene indicata l'eparina di basso peso molecolare, cioè le punture di eparina, e il documento del Ministero suggerisce l'utilizzo del cortisone quando i sintomi persistono, la febbre rimane alta per più giorni, sebbene in realtà gli studi effettuati sull'utilizzo del cortisone siano stati condotti solamente in pazienti ospedalizzati e con polmonite interstiziale. Quindi quella è stata forse un'indicazione più basata su quella che noi definiamo opinione degli esperti che sull'evidenza di dati scientifici. Però il messaggio che vorrei dare è che l'idrossiclorochina, l'azitromicina non vanno utilizzate perché non hanno nessuna indicazione, cose che sono state invece utilizzate molto in passato, eparina e eventualmente cortisone solamente in casi molto particolari indicati appunto dalle linee guida del Ministero, per tutto il resto fondamentalmente solamente paracetamolo e acqua. Non vanno poi utilizzati gli antibiotici, professor Arari, tranne il caso in cui il quadro clinico ponga il sospetto fondato di una sovrapposizione batterica o quando l'infezione batterica si è dimostrata da un esame microbiologico. Assolutamente sì, ha ragione lei. Gli antibiotici, come anche la azitromicina, di cui si voleva sfruttare una certa azione immunomodulatoria che ha sulle cellule del polmone, non vanno utilizzati perché non ci sono assolutamente indicazioni in questo senso e non abbiamo neanche nessun beneficio se non effetti collaterali tossici o indesiderati. Professore, le persone che hanno delle malattie croniche non devono modificare le terapie per le altre patologie? No, sono una serie di studi che hanno documentato come sia fondamentale onde evitare un peggioramento della malattia di base, che i pazienti in trattamento con farmaci per situazioni croniche mantengano le loro terapie di fondo, anche quando si tratta di farmaci, per esempio, immunosoppressori. Ci sono alcuni studi anche fatti su popolazioni di pazienti reumatologici, ad esempio, che documentano come sia importante mantenere anche i trattamenti immunosoppressori, cioè quelli che diminuiscono le difese dell'organismo e teoricamente potrebbero rendere i soggetti più suscettibili all'infezione virale, ma è maggiore il rischio riducendo queste terapie o sospendendole che invece il beneficio mantenendole. Professor Arari, abbiamo parlato di cure domiciliari, trasferiamoci ora in ospedale. Ci sono delle novità, dei cambiamenti? È emerso dai dati scientifici condotti attraverso studi rigorosi e questo spiega anche il fatto che abbiamo necessità di studi rigorosi, non possiamo fidarci di piccoli studi come sono stati quelli pubblicati nel primo periodo della pandemia. È emerso che appunto gli unici farmaci su cui esiste una evidenza forte, anzi l'unico farmaco su cui esiste un'evidenza forte è il cortisone nei pazienti con polmonite interstiziale da SARS-CoV-2 e insufficienza respiratoria, quindi necessità di ossigeno. Questa è l'unica certezza che abbiamo perché contrasta la cosiddetta tempesta citochimica, che è quel meccanismo infiammatorio scatenato dal virus che determina la liberazione di una serie di sostanze nel nostro organismo che hanno un effetto anche dannoso su altri organi e sul polmone stesso. Le eparine hanno delle evidenze non così forti dal punto di vista scientifico, però diciamo che possiamo traslare lì una serie di dati che abbiamo su altre condizioni e la loro azione sulla prevenzione dei meccanismi di tipo tromboembolico è nota da decenni e quindi comunque credo che ci sia un razionale forte, anche se, ripeto, non ci sono studi randomizzati controllati di supporto così solidi come sul cortisone. Tutto il resto che va dal remdesivir ovviamente l'idrossiclorochina e l'azitromicina, ma anche sul plasma iperimmune, non ha a questo momento evidenze scientifiche favorevoli. Il remdesivir è molto discusso ed è appena uscito uno studio anche dell'OMS che mette in discussione la sua utilità ed è stata sospeso dall'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Adesso vedremo cosa farà l'EMA. E dall'altra parte c'è l'Agenzia Europea per il riconoscimento dei farmaci e dall'altra parte anche sul plasma iperimmune gli studi pubblicati parlo degli studi randomizzati, controllati, cioè gli studi che hanno una grossa solidità scientifica, ultimo dei quali uno la settimana scorsa sulla nostra rivista più prestigiosa New England, sono studi negativi. Poi c'è uno studio italiano che è in corso, lo Tsunami, è chiamato così, di cui aspettiamo non fra molto tempo, credo che verrà fra qualche mese, i risultati, perché comunque gli studi devono sempre avere delle conferme anche da altre ricerche. Però la situazione è questa, quindi sostanzialmente in ospedale quello che possiamo utilizzare è il cortisone, l'eparina di basso tensione auricolare e in casi selezionati il remdesivir con tutte le controversie che ho appena citato. Professor Arari, io la ringrazio per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi, grazie mille. Ringrazio Gianmarco Ferronato in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione e come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano per l'appunto dal mondo della ricerca e per una nuova intervista video sulla pagina Facebook di Radio 24 e di Obiettivo Salute. Una buona giornata.